un microorto spaziale a 6.000 km dalla Terra per coltivare verdure fresche destinate alle future esplorazioni spaziali. Buonasera, benvenuti a Smart City, si chiama Green Cube ed è progettato da un team scientifico tutto italiano e verrà lanciato in orbita a bordo di un mini satellite in occasione del volo inaugurale del vettore ufficiale Vega C dell'Agenzia Spaziale Europea ESA. Anche Vega C è un vettore però made in Italy. Parliamo di un prototipo realizzato da Enea, Università Federico II di Napoli e Sapienza Università di Roma, quest'ultima nel ruolo di coordinatore, coordinatrice del progetto e titolare appunto di un accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana. Sarà un orto davvero minimale, solo 3 litri di volume, ma si tratta della prima sperimentazione al mondo di questo tipo. Ne parliamo con Luca Nardi, ricercatore dell'Enea del Laboratorio di Biotecnologie. Buonasera Nardi, benvenuto. Buonasera. Dunque Nardi, come prima cosa ti chiedo di descriverci un po' questo oggetto che abbiamo detto è molto piccolo, no? 30 cm per 10 per 10, quindi un parallelepipedo. Come è fatto, come funziona, cosa conterrà? Il satellite che si sta realizzando e che sta realizzando l'Università della Sapienza di Roma è un CubeSat, sono dei piccoli cubi, vengono definiti in base alla dimensione come unità. Difatti una unità generalmente di un CubeSat è intorno a 10x10x10 un litro, sì, certo. Sì. E nel nostro caso la richiesta era per un 3U e quindi una 3 unità, in cui 2 unità sono dedicate essenzialmente allo spazio di crescita vero e proprio e una unità invece ai sistemi di gestione e controllo, di trasmissione dei dati e della verifica dello stato di salute della pianta con integrati tutta una serie di sensori. Queste piattaforme sono molto, molto buone soprattutto per i gruppi universitari, perché il costo è basso e si può raggiungere la sperimentazione nello spazio in tempi più rapidi. Il lanciatore difatti è stato studiato per lanciare parecchi di questi satelliti, quindi questa ricerca è più alla portata dei giovani e delle università e permette quindi di testare parecchie cose. Nel nostro caso è poter testare la crescita delle microverdure. Ecco, intanto quindi, di che verdure stiamo parlando? Che cosa ci seminerete in questa microserra? Non è neanche una serra, perché immagino che sia Non è una serra perché non è trasparente. Il passaggio della luce solare, esatto, non è trasparente, ma utilizziamo nell'illuminazione artificiale la luce LED, basata su luce LED. Andremo a coltivare, stiamo selezionando le specie migliori all'interno della famiglia delle brassicacee. Ricordaci, perché magari non tutti sanno. La famiglia comprende per esempio i broccoli, i cavoli, il ravanello, ce ne sono tantissimi, insomma. Nel nostro caso potrebbe essere la specie che potremmo mandare il cavolo, però adesso stiamo valutando anche le varietà e saranno varietà commerciali quelle che manderemo su. Quali sono gli obiettivi della missione? Qualcosa mi pare che ce l'hai già anticipato dicendo che comunque intanto è dare la possibilità di fare sperimentazione mantenendo i costi entro dei limiti accettabili. Ricordiamoci sempre che mandare un chilogrammo in orbita costa decine di migliaia di euro in genere, comunque l'ordine di grandezza è questo. Sì. Ecco, che cosa sperimenterete? Perché intanto la crescita di un vegetale nello spazio immagino non sia... ci sia ancora molto da capire, anche se credo che a bordo della Stazione Spaziale Internazionale qualche esperimento di questo genere sia già stato fatto. No, ne sono stati fatti parecchi, nel senso esperimenti nello spazio con le piante ne sono stati fatti parecchi, anche da parecchi gruppi di ricerca, e questo diciamo è un'attività soltanto per verificare la possibilità di coltivare queste microverdure in presenza di microgravità reale e in condizioni anche di presenza di radiazioni soprattutto. Quindi quello che si andrà a verificare è se è possibile coltivare queste piante in condizioni molto estreme e come supporto per l'alimentazione degli astronauti, diciamo un alimento fresco e altamente nutrizionale. Questo da molti lavori scientifici è stato dimostrato, che le microverdure hanno un elevato contenuto di vitamine ma anche di antiossidanti naturali, quindi dare un alimento di questo tipo in una dieta basata su un alimento conservato, non fresco, permetterà agli astronauti di poter combattere meglio lo stress a cui andranno incontro. Questo sistema inoltre permette di realizzare anche buone rese produttive su piccole aree. Diciamo che stiamo intorno ai 2 kg per metro quadro, questa è la resa produttiva. Mi pare di capire che uno degli obiettivi fondamentali di questa missione è verificare la resistenza delle piante alle radiazioni. È così? Sì, l'orbita che andrà ad occupare il satellite a 6.000 km di distanza dalla Terra è un'orbita molto estrema. Le radiazioni saranno molto alte, le radiazioni presenti, e questo satellite è poco schermato, quindi radiazioni passano tutte, quindi potrebbero condizionare negativamente la crescita delle piante. Però è quello che noi vogliamo vedere, se è possibile vedere la resistenza delle piante, soprattutto per integrare come alimento fresco nelle future missioni spaziali verso Marte le microverdure come alimento. Quindi è quello che vorremmo valutare, la capacità di crescere e soprattutto di fornire vitamine e antiossidanti naturali alla dieta degli astronauti. Forse vale la pena di aggiungere che alcuni di questi principi nutritivi di cui tu hai parlato è difficile portarseli dalla Terra in un lungo viaggio nello spazio, perché verrebbero distrutti dalle dosi di radiazioni a cui verrebbero sottoposti, quindi bisogna rigenerarli continuamente per poter integrare la dieta degli astronauti. Grazie Luca Nardi. Grazie Dante, Maurizio. E va bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata a tutti voi.